nessuno di noi mai ha pensato di rimuovere l'allenatore e non lo faremo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Video turista che arrivi, ti imbevi de fori ed escavi, poi tutto d'un colpo te trovi, fontana de Trevi, che è tutta per te. No, no, solo abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. Legata sta vecchia fontana. La gente qui dorme calcio, vive calcio, mangia calcio, no? Sì. Forse a volte è un po' troppo e a volte è un po' troppo negativo. E abbiamo avuto dopo l'eliminazione al Napoli e domani vedremo i lupi incazzati, sicuramente. Arrivederci Roma, goodbye. Ma questa gara mi ha fatto capire che quest'anno vinceremo lo scudetto. Io sono sicuro di questo perché ho una squadra fortissima, siamo più forti che la Juventus e lo dimostreremo in campo. Ma a parte il Papa, a parte Francesco Totti, che è uno dei re di Roma, l'unico re di Roma era il Libano, no? Di Romanzo Criminale. Ed eccovi una carrellata delle più famose uscite di García. Allora, è il giorno della nostalgia, dei grandi ritorni, o come magari dirà qualche cinico, dei minestroni riscaldati. Spalletti a Roma dopo un lungo esilio, dopo 5 anni di esilio, ma anche Immobile al Torino dopo 1 anno e mezzo, atteso da un sacco di tifosi a caselle. Torna anche in Italia Diamanti dal Watford all'Atalanta. Intanto c'è, ma di questo parliamo dopo, pure la Cina caldissima, perché io avrei trovato anche degli ingaggi per me per Pardo al Jiangsu. Ciao Pierluigi. Ciao, come va? Benissimo, andiamo al Jiangsu. Vieni. Come mi senti? Eh? Come mi senti? Bene, perché? No, bene o male. Bene, prova, 1, 2, 3, prova. Prova, come mi senti? Ti sento bene. Perfetto. Vabbè, speriamo. Comunque, per il momento va bene. No, dicevo del Jiangsu che si è preso Luis Adriano, vorrebbe anche Gervinho, vorrebbe anche Guarin, ha provato per Eder, cose di cui parliamo dopo, però questa storia dei cinesi magari c'entra anche Lippi, tutto questo discorso. Intanto il francese se ne va, come ampiamente previsto, e in un modo insomma molto da Roma di questi tempi, anche un po' comico se vogliamo, con dopo le vacanze di Natale, quando poteva essere il momento giusto, volendo, per sostituirlo, dopo questo viaggio transoceanico di Spalletti, va, parla con Pallotta, firma contratto 1 anno e mezzo, 2,5 milioni a stagione, cioè questa metà più la prossima, e torna indietro e domani fa allenamento. Come la vedi? Beh, una delle cose più irrazionali che si siano viste, non tanto nella scelta di Spalletti, che ovviamente è un grande allenatore, è un allenatore di altissimo profilo, e a Roma ha fatto cose già importanti, quindi da questo punto di vista, cioè, l'anomalia non è la scelta di Spalletti, che mi sembra invece ci possa stare, la vera anomalia è stata la gestione di tutta questa vicenda, insomma. Io sì, penso che se la Roma voleva far fuori Rudy García, doveva farlo dopo Roma-Bate. Sinceramente, Roma-Bate è stato il massimo risultato col peggior spettacolo possibile, quindi era una partita che in qualche modo dava forza alle possibilità europee di questa squadra, ma nella maniera peggiore. Da quel momento in poi si è traccheggiato lungamente, io credo per due motivi. Primo, perché si cullava l'idea di poter andare a prendere Conte in estate, col quale già c'erano stati contatti, e secondo, perché io credo che questa serie di dirigenti che c'è a Roma in questo momento, insomma, è il momento nel quale manda via o comunque accetta l'idea che possa andare via García, in qualche modo inevitabilmente vede anche a questo punto le proprie responsabilità. Certo. anche una sconfitta di Sabatini questa, no? Che aveva lungamente difeso Garcia e più volte aveva detto via lui, via io, via tutti, no? Adesso la sua posizione non, forse non è più così solida. Sì, penso anch'io perché qui ha deciso Pallotta, sì. Ha deciso in una maniera, diciamo, da quello che ci risulta, non assembleare, non collegiale, ma in maniera assolutamente autonoma. Uh-huh. Poi è ovvio che insomma nessuno si è opposto, però alla fine l'ultima parola è stata quella del presidente. E dall'altra perché credo che, ripeto, al netto degli errori di Garcia che ci sono stati e sono indiscutibili, poi questa squadra abbia comunque dei difetti di costruzione. Sì. Poi è evidente che le cose saranno andando meno bene di come potevano andare, lo diciamo sempre, l'allenatore finisce inevitabilmente per essere la sintesi del risultato, del rapporto tra qualità, potenzialità di una squadra e i risultati, quindi poi alla fine chi paga è l'allenatore, non perché sia solo colpa sua, la colpa è dei giocatori, la colpa è dell'ambiente. Sì, responsabilità diffusa, però uno bisogna trovarlo e dunque paga il capobranco. Paga, anche perché è lui quello che è il padrone del vapore, cioè è lui quello che si becca gli onori e gli oneri, evidentemente, è lui quello che può trasformare una buona squadra in un'ottima squadra o viceversa, e qui c'è una squadra potenzialmente molto forte che sicuramente nell'ultimo mese e mezzo, una vittoria, lo ricordiamo, nelle ultime 10 partite, mettendoci dentro Champions, Coppa Italia e campionato, beh insomma francamente non c'era una grande prospettiva, quindi da questo punto di vista è chiaro che qualcosa dovesse succedere. Sì, è chiaro che qualcosa dovesse succedere, magari con, come si diceva prima, con una tempistica diversa, perché questa è sembrata quantomeno discutibile. Giorgio De Luca, il nostro autore, Federico Bini in redazione, da Marco Ferronati in regia. Prima di fermarci per il traffico e poi convochiamo un nostro amico romanista ben noto, vi faccio sentire cosa aveva detto Spalletti nel 2013 a proposito di Garcia, che oggi ha sostituito. Avessi giocare spesso e all'inizio mi avevano fatto una bellissima impressione. Naturalmente mi inchino al lavoro fatto da Rudy Garcia, mi farebbe piacere vederlo lavorare perché in conferenza stampa è bravissimo, non ho tanti contatti, non vado a chiedere, però sarei curioso di vederlo lavorare perché secondo me è un'altra parte molto importante. Tutti convocati. Tutti convocati. Garcia è un allenatore che mi piace, un allenatore che sembrava che avesse la residenza a Trigoria, perché appena arrivato conosceva già l'ambiente, la squadra, conosceva la Roma, e questo è stato sicuramente un vantaggio per inserirsi in una piazza del genere. Questo era un altro Spalletti, quello di prima, Dantan, quello di prima del 2013, questo un po' più così schiacciato, direbbero a Milano, schiscio, era del 2014. Ciao Luca Telese. Luca? Mi senti? Eccomi. Ciao, come stai? E come sto? Controvento. Controvento. Contento. Voltaire se ne va, il grande intellettuale prestato a un gioco di massa, come l'aveva definito il qui presente Luca Telese, durato 2 stagioni e mezza, bruciato da Roma. Sì, e questo non c'è dubbio. È andata veramente così, paga per colpe non sue, alla fine non lo dirà mai nessuno, perché nel calcio anche le verità plateali diventano omertà. Il Milan gli ha giocato contro. Aspetta che ti richiamiamo, Luca, non ti sentiamo. Hai preso il telefono di Pierluigi? Sì, no, il mio ce l'ho qui saldamente in mano. Saldamente. Ah, stavo sentendo Luca Telese, paga chiaramente per colpe non sue, anche se queste cose normalmente non si dicono. Adesso sentiremo anche cosa hanno da dire i nostri ascoltatori in proposito su questo e sugli altri argomenti che andremo a toccare. 800240024 è il numero verde. Certo, Pier, che se adesso Spalletti arriva, è chiaro che non è un allenatore forse adatto a prendere una squadra in corsa, è abituato a costruire più che a mettere delle pezze, però se riesce a dare una sistemata a quella difesa, se gli danno una sistemata alla squadra, la Roma potrebbe tornare da corsa. Ecco che è tornato Luca Terese. Eccoci. No, dicevo Luca. Che sì. Chiaramente Garcia ha fatto la capra espiatoria, non conviene a nessuno dirlo. Nel calcio si negano le verità scomode, anche le più evidenti, ad esempio che col Milan nel secondo tempo la squadra, non so perché, forse per sfinimento, forse per togliersi un dente, gli ha giocato quasi palesemente contro. I tre retropassaggi di De Rossi in 10 minuti, lingue di fuori, pressing, però forse alla Luca, fine ma le lingue doveva di fuori non è giocare contro, le lingue di fuori non avere benzina, dai. Questo sì, stavo per dire. Io non credo, però fare tre retropassaggi in 10 minuti secondo me vuol dire, è una fotografia, non solo lui, Szczęsny che prende tempo. Io ce l'avevo davanti perché, come sapete, sono abbonato al settore famiglia, vedevo lui diceva attaccate e questi, forse perché distrutti fisicamente, non lo so, però è una squadra di Serie A, non è che il Forlimpopoli che giocavano sulla difesa. Però detto questo non lo dico per recriminare, lo dico perché sicuramente i problemi che ha avuto Garcia, magari anche dopo una bella vittoria con la Verona, si presenteranno. Una squadra che è in rosa 15 attaccanti e ne cercava altri due e non ha quei difensori di cui parlavate un istante fa. Nomi e cognomi e responsabilità di chi sono? Di Pallotta, di Sabatini? Allora, a costo che poi di dover pagare dei prezzi tremendi, perché Pallotta, non si è mai visto un presidente che abbia a cuore qualcosa, che fa l'esonero da Miami, dalla spiaggia di Miami, che non vede la squadra da un anno, dice la preparazione atletica è ottima, cioè forse abbiamo visto più noi dal bordo campo dell'Olimpico che lui da là, cioè quindi sicuramente se vuoi fare il presidente, almeno quando cambi un allenatore, almeno quando lo presenti, almeno quando c'è un momento duro, parli con la squadra. Non riesco a capire come pensava di poter dirigere una fase così delicata, ripeto, di un giocattolino che qualcosa conta, senza neanche essere entrato. Cioè credo che dal febbraio lui non abbia incontrato fisicamente nessun giocatore, forse Totti da una parte, insomma è strano. Sì. No, ma è strano soprattutto che uno da Firenze debba andare a Miami per firmare un contratto, incontrarsi e poi dover tornare col jet lag ad allenare la squadra. Questo è veramente, veramente incredibile, la situazione di ieri stava soprattutto una situazione surreale. Certo. Io sono di quelli, fra quelli che pensa che alcune iniziative della Roma di questi anni dal punto di vista del marketing, del merchandising, il progetto del nuovo stadio siano cose utili, positive e che diano una dimensione internazionale a questo club. Lo dico veramente senza ironia, penso che alla lunga possano funzionare, però ecco, ieri e oggi sta andando in scena una cosa che non ha senso, come diceva Cruciani ieri. Esatto, come diceva Cruciani ieri, prendi un aereo, vieni qui. Un aereo, oppure si fida di qualcuno, oppure fa una videoconferenza. No, ma viene qui, dai Pierluigi, in una situazione come questa, dice ma giustamente c'è. Luca, è un giocattolino che qualcosa costa e qualcosa vale per un sacco di gente. Prendi un aereo da Miami, vieni qui, metti a posto la situazione 3 giorni e poi te ne torni in spiaggia. Non è che io la vedo così, poi chissà cosa da fare laggiù, non possiamo saperlo. Il ritorno di Spalletti, Luca, allora, ti convince? Il primo esercizio da fare è prendersi in archivio tutte le cose che si sono dette su Spalletti quando fu cacciato a furor di popolo, divorato come Crono divora i suoi figli, e sono le stesse che si dicono ora di Garcia: non ha il polso, non ha carattere, troppo raffinato, troppo sofisticato, troppo offensivista, troppo poco adatto per Roma, troppo provinciale. Quindi che miracolosamente, allora io spero che da domani la Roma vinca 10 partite di seguito, sicuramente vincerà la prima, però ripeto, anche Gesù Cristo se entrasse a Trigoria avrebbe problema di Macchimetto quando recupera Strootman. Chi metto se si fa male Manolas o se prende un cartellino giallo Rudiger? Cioè i problemi che venivano imputati a Garcia ce li avrà anche lui. Cioè io per esempio Rudiger, che ha fatto pure una bella partita, ma ha fatto uno svarione che ha creato un'occasione da rete gratis così, ed è uno che non dà quella sicurezza alla squadra che sempre avevano. Però c'è un mercato di mezzo. E c'è certo, un mercato di mezzo, c'è un mercato allora di mezzo. Io quando ti ho detto 15 non è che ti ho detto un numero a caso, me li sono contati, e allora gli unici due di cui si parlava, addirittura abbiamo avuto voci di accordi già fatti, no? Si diceva sono già chiusi, c'è già chiuso la parola, poi sono stati forse congelati i due acquisti e come sapete sono due attaccanti, si parla di El Shaarawy e del famoso Perotti. Bene, la Roma controlla Totti, Dzeko, Gervinho, Salah, Sadik, Florenzi, Iago Falche, Dumbia, Pons, non so se vi ricordate Pons, e Gerson che già si è incazzato perché ha detto ma come mi date in prestito, è arrivato sto papà procuratore. E poi ci sono dei prestiti non da poco perché c'è Sanabria, c'è gli Aic, il cavallo di Troia in casa dell'Inter, c'è Iturbe che ora sembra essere stato ceduto e c'è Imbarbo e persino Mendes. Cioè quindi è una rosa, cioè, è fatta tutta di attacca, ma perché? Cioè dico, ma io non sono bravo, non sono un esperto. Molto ma berlusconiana, molto berlusconiana. Chi metti? Chi metti? Bisogna vedere con chi giochi. Roma, alla fine problema, che Garcia giocava con due esterni, e Dzeko ha fatto una fatica boia ad inserirsi. Francamente anch'io non vedo l'esigenza di riprenderne di altri questi, due che sono il più in forma di questi, secondo me, è proprio Sadik, che è quello che serve, c'è un fisico, una prestanza, protegge il pallone e tira in porta, cavolo. Sì. Perché tutti gli altri, l'altra cosa incredibile era la paura di tirare in porta che avevano Pjanic, persino Nainggolan che è stato il migliore in campo, però Nainggolan è uscito col dolore sulla coscia, sì, De Rossi era appena rientrato, cioè c'è il problema anche che sembra evidente, è un problema per la preparazione atletica. Partiti l'anno scorso con l'idea mai più di fiacchi e già sono 15 infortuni muscolari, no, sembra il film dell'orrore. Questo è chiaro. Luca ti ringrazio, grazie mille, ciao Luca. Ciao. Telese, Pierluigi sei, sì, tornato. Sì, sono. Oh, okay. La squadra è allenata male. Beh, è costruita, cioè non ha torto Telese quando fa la conta degli attaccanti e adesso se ne vogliono prendere due in più. Questi sono tornati indietro, poi neanche mettersi d'accordo perché durante l'estate si fanno i sondaggi e tanti davano la Roma favorita dello scudetto e in questo momento la squadra è invece in caduta prolungata al quinto posto e allora vuol dire che o era stata sopravvalutata la rosa. E io ti dico la verità, ci sono state delle cose sopravvalutate, è stato sopravvalutato per esempio il ritorno di Castan. Sì. Castan sappiamo benissimo che ha avuto un problema abbastanza grosso nella vita e ha diritto ad avere, oltre che tutto il nostro appoggio, in bocca al lupo indiscriminato, tutto il tempo utile per poter recuperare un certo tipo di livello, ma sicuramente insomma, è stato un azzardo pensare che Castan, per il semplice fatto di essere disponibile, tornasse a essere il giocatore che era prima. Certo. Questo col senno di poi è stato sicuramente un problema. E Yang Ambiwa, che pure non è che stia facendo bene in Francia, forse alla fine dà più garanzie rispetto a Rudiger, visto che l'anno scorso comunque lui e Astori hanno contribuito con Manolas a fare la seconda miglior difesa del campionato. Quindi ci sono secondo me delle cose, delle incongruenze in questa squadra. Questa è una squadra che ha fatto anche autofinanziamento negli ultimi anni, non va dimenticato. Sì, questo è chiaro. Poi cambierà qualcosa anche con Spalletti, cioè disegnerà comunque una Roma diversa, immaginabile. Questa è una squadra che ha preso dei giocatori e li ha rivenduti, ha fatto trade. Tecnicamente abbiamo le borse, ma 4 minuti la Roma con Marquinhos, con Lamela, con Benatia ha fatto trading, l'ha fatto anche molto bene in tanti casi, con Iturbe ovviamente l'ha fatto meno bene, però certamente ha centrato dei gol, dal punto di vista del talent scout credo che non possa essere discusso. Però è mancata quest'anno. Io credo che il giudizio su Garcia in questa stagione non possa essere positivo, così come la valutazione storica poi 2 anni e mezzo è una valutazione secondo me positiva, perché arrivare secondo al primo anno e comunque confermarsi l'anno scorso, se guardiamo la storia della Roma, quella recente ma anche quella passata, è un ottimo risultato. Sì, risultati alla mano è così. Abbiamo la borsa invece subito, poi sentiremo Paolo dalla provincia di Piacenza e Marco da Roma. 800 24 00 24 è il numero verde, vi aspettiamo. Non avete niente altro da fare? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia! Tutti convocati. Ora proviamo a capire l'umore degli ascoltatori, ma dal tenore dei messaggi non mi sembra che sia stato preso benissimo da gran parte dei tifosi romanisti il ritorno di Luciano Spalletti. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Volevo semplicemente fare delle piccole premesse. D'accordo che non è il suo, insomma, ad avere delle colpe, no? Vorrei sapere quanta percentuale di responsabilità ha un direttore sportivo che non capisce come una squadra sia fondata per il 60%, e qui parlo con persone competenti, a partire dal portiere. Già mi ricordo con Pardo in precedenza, diversi mesi fa, parlavamo di questo problema. Si sa che è il portiere e un gruppo difensivo che da Roma ha 5 milioni di mercato. Si sa che vuole vincere, tiene, e lo avete già detto voi, una coppia centrale difensiva che ha quella Marchinho, Benazia con Edin Casbi, poi sono l'altro, eccetera. Quindi dire da questo, quindi un discorso tecnico tattico, la difesa, eccetera, un portiere che è un problema atavico, cioè sembra è cronico, è cronicizzato, e soprattutto quando si dice questa squadra ha problemi, questa squadra, no, è la società che ha problemi, è un ambiente. Cambiare radicalmente significa mandare via Sabatini, Venturace, non dico i magazzinieri, non dico i giardinieri che curano il campo, però a questo punto si salvi chi può alla Roma, insomma tutti hanno la loro parte di responsabilità, giocatori compresi. Ha pagato Garcia, è chiaro che la Roma società avrebbe bisogno di un nuovo assetto, questo mi sembra evidente, anche perché è stato, come ricordava Pierluigi prima, grottesco il modo in cui è avvenuto il cambio di allenatore. Ma io credo che alla Roma, l'abbiamo fatto tante volte questo discorso, servirebbe un uomo forte di società qui a Roma. Per me Sabatini è bravo, è bravissimo a fare il talent scout, probabilmente è più bravo che c'è. Comunque ha un palmarès da questo punto di vista incredibile, una conoscenza dei giocatori pazzesca. È chiaro che nel momento nel quale poi lui si mette a fare il talent scout e anche però il plenipotenziario, e deve anche essere l'uomo che porta la disciplina e l'ordine all'interno di Trigoria, forse sono troppi ruoli in uno, e forse non è nemmeno adatto, tagliato, certo. Non è questo, manca molto alla Roma, e manca soprattutto perché poi, con tutto rispetto per Valdissoni e Terzanti, poi alla fine la proprietà è lontana. Quindi per quanto si possa essere bravi, volenterosi e professionali, però insomma comunque rispetto ad altre società dove la proprietà la senti tutti i giorni, qualche volta anche troppo, sono pieno di società che hanno magari il problema inverso, qui la senti pochissimo. Poi parliamo alla fine sicuramente di una classifica che potrebbe ancora essere sistemata, parliamo di una serie di pareggi che poi alla fine quello che condanna Garcia sono le rimonte del finale contro il Bologna, contro il Torino, contro il Chievo. Guarda, posso dirti, quello che condanna Garcia è il fatto che è stato confermato senza la totale fiducia da parte della, probabilmente della stessa società, sì, e dell'ambiente. È stato confermato su condicio, e come sempre accade in questi casi, l'allenatore non termina la stagione. Lorenzo da Milano, e poi parliamo di un altro allenatore che è lì, che stava camminando insieme a Garcia, sul filo ne è rimasto uno soltanto. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi, io sono un tifoso della Roma, volevo fare questa riflessione con voi a proposito della conferma del fatto che questa scelta, l'esonero, sia stata una scelta tardiva. A mio modo di vedere, i problemi della Roma nascono grosso modo un anno e mezzo fa, cioè nascono alla fine del 2014. Secondo me non tanto dopo il 7-1 contro il Bayern, ma quanto dopo il 3-2 contro la Juventus, il famoso gesto del violino e le polemiche, eccetera. Perché se andate a vedere, Garcia si era fatto forte del fatto che ha fatto 2 anni in secondo posto, ma a mio modo di vedere, e volevo una conferma da voi, il secondo posto dell'anno scorso, secondo me, è molto più demerito di tutte le altre squadre che non erano la Juventus che non la Roma, perché le milanesi erano inesistenti, il Napoli ha sbagliato qualunque tipo di partita che poteva sbagliare e la Fiorentina non era in lizza. Quindi di fatto, secondo me, è lì che parte il problema. Meno probante, sono d'accordo. È stato meno probante il secondo posto dell'anno scorso, ma anche meno convincente la Roma dell'anno scorso, su questo non c'è dubbio, rispetto a quella del primo anno. Il 2015 della Roma è stato tremendo, e la seconda parte della stagione scorsa è stata veramente abominevole. Il secondo posto è stato ottenuto, va detto anche poi alla fine, che va riconosciuto, anche grazie a una serie di imprese in qualche caso anche fortunate. Roma-Napoli, una partita finisce 1-0, che poteva tranquillamente pareggiare il Napoli, però sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè sicuramente il Napoli l'anno scorso si è si è suscitato dal punto di vista sportivo con Benitez. Non sì, essere sì. riuscito ad arrivare fra i primi tre è veramente incredibile. La Lazio ha fatto una grandissima seconda parte di stagione, però aveva un gap comunque importante da colmare. Poi e i milanesi non pervenute durante tutto l'anno, quindi, quindi difficile trovare anche una stagione dove ci sono tutte queste concomitanze. Allora andiamo sull'altro allenatore che sta camminando sul filo, l'unico allenatore che è rimasto sul filo e camminerà, danzerà lì anche stasera. Mesi che vado così, cioè non è che non mi fa né caldo né freddo, non è un problema per me. Io cerco e sono sereno come sono sempre stato, cerco di essere concentrato e pensare partita per partita, poi i voci, i cosi qua là, non è che mi interessano più di tanto. Notizie false, notizie vere, non durano lo spazio di un telegiornale. Mi può anche far piacere dopo una partita, prima di una partita del genere, però la società ha fatto. Ha detto che non era vero, cioè penso che è tutto finito là. Poi non sono cose che, su quali io dovrei pensare e preoccuparmi, come ho detto. Sono troppo intelligente per cadere nelle trappole. Come ho detto, sono sereno, sono sempre stato sereno e sarò sempre sereno. Che gran confusione! Oh, che gran confusione! Sono capitano di un Milan che oggi è ottavo in classifica, quindi è normale che ci siano critiche nei nostri confronti, nei miei confronti, poi nei miei confronti sono sempre forse aspre, diciamo, quindi però da questo punto di vista non è un problema perché sono abituato, meglio me che altri, quindi va bene che vengo criticato, almeno i miei compagni sono liberi di testa, sono più tranquilli. Che gran confusione! Mihajlovic e Montolivo. Franco Ordine, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a voi tutti. Non si può fare sta vita a lungo, camminare su quel filo ogni benedetta domenica e pure il mercoledì di Coppa Italia. Ma guarda che è successo l'anno scorso a Inzaghi, ed è arrivato poi fino alla fine, per cui non mi pare che sia, come dire, richiedere una particolare prova di equilibrio all'allenatore, che comunque sa benissimo che i risultati non sono a suo favore, che le prove calcistiche non sono a suo favore, non sono soddisfacenti, sa benissimo che le mancate visite del presidente Berlusconi hanno un messaggio, come dire, un non detto che si capisce al volo, e quindi tutto questo mi sembra. Come dire, non ci vedo nulla di particolarmente drammatico e di particolarmente inedito. Quindi si tenterà di arrivare a fine stagione? Ma tutto, guarda, dipenderà molto dai risultati. È evidente che i due snodi decisivi sono quelli di stasera con il Carpi in Coppa Italia e domenica sera a San Siro con la Fiorentina, tenuto conto che il Milan è reduce da due prove a San Siro, un pareggio inquietante con il Verona e una sconfitta ancora più inquietante con il Bologna, anche se molto sfortunata, capisci che si gioca laddove proprio mostra di essere in maggiore difficoltà, anche per la contestazione del pubblico, le sue chance definitive, sia Mihajlovic che la squadra. Certo, Pierluigi. No, io dico che in questo il Milan ha una situazione abbastanza simile, i dirigenti del Milan hanno un atteggiamento abbastanza simile a quelli della Roma, cioè l'idea è cercare in tutti i modi di arrivare alla rottura, anche perché il Milan ha un problema da questo punto di vista anche proprio di allenatori a libro paga, no? E quindi insomma c'è un'ulteriore complessità rispetto alla situazione della Roma. Hai una squadra che ha faticato moltissimo contro le piccole, e questo secondo me è un aspetto anche tattico ma anche di caratteriale, perché poi comunque l'ansia alla prestazione ti viene soprattutto quando le cose sono teoricamente semplici, quando fa ancora più rumore se fallisci. La Juve, il Milan ha giocato discrete partite in casa della Juve, non ha giocato una brutta partita, ha giocato un buon derby contro l'Inter, ha giocato un buon secondo tempo contro la Roma, ha vinto giocando bene contro la Lazio, Sì, però Pierluigi, se tu fai il calcolo, allora, un tempo strepitoso a Udine, poi un secondo tempo buono a Frosinone, poi la partita con la Lazio, poi il secondo tempo con la Roma, poi ci metti la partita di Coppa Italia a Genova con la Sampdoria, cinque indizi fanno la prova regina, e la prova regina è che questa squadra si esprime meglio fuori casa, non soltanto perché in casa gode di un deficit clamoroso di personalità e anche del mancato appoggio della curva, ma perché le sue caratteristiche, le caratteristiche del gioco di Mihajlovic si esprimono meglio quando è fuori. Sì, poi giocare a San Siro di questi tempi è molto complicato, perché l'ambiente è ostile, perché senti un sacco di pressione. Anche al discorso di Montolivo, il quale ha il dente avvelenato, perché sicuramente è bersaglio di critiche, in qualche caso anche eccessive. È tutto. Ma se posso, se posso fare una piccola invasione di campo, vorrei dire al nostro radioascoltatore di prima, Lorenzo, tifoso della Roma, che diceva che non ha valore il secondo posto dell'anno scorso della Roma, che questo dal punto di vista calcistico, dal punto di vista come dire, squisitamente sportivo, è una bestemmia, perché non è colpa della Roma se Inter e Milan l'anno scorso sono stati un disastro atomico. No, certo, non è colpa della Roma, Franco, però è stato un secondo posto cui è arrivata per assenza di contendenti, esatto, senza responsabilità della Roma. Ed è arrivata grazie ai punti che ha messo in pancia nella parte della stagione, nella quale pensava di vincere il campionato, la famosa fase. Sì, ma poi mettiamo nel conto che quest'anno diciamo l'equilibrio cambiato, clamoroso, è figlio di un mercato altrettanto clamoroso fatto dalle due società di Milano, oltre che dalla Fiorentina, oltre che dal Napoli, che ha cambiato addirittura registro, che ha cambiato allenatore, ed è stata quella il colpo di fortuna. Pensare che Sarri è stato sul tavolo di Arcore per due settimane, il nome di Sarri, e che poi alla fine è stato scelto Mihajlovic, fa un po' come dire, capire che nel calcio spesso è anche una questione di appuntamenti mancati. Sì, sliding doors, Mihajlovic doveva andare a Napoli. Come nella vita, le donne della nostra vita. Sì, sì. Franco, ti chiedo un attimo di pazienza, poi facciamo finta che, dopo il traffico, facciamo finta che questa sera non dovesse andare bene a Mihajlovic contro il Carpi in Coppa Italia. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, con Franco Ordine e Pierluigi Pardo facciamo questa ipotesi. La situazione mi sembra chiara: al Milan si tenterà di arrivare fino a fine stagione con Sinisa Mihajlovic e poi si punterà su Conte. Questo è il primo scenario. Secondo scenario: la coppia di partite che prima ha citato Franco Ordine, con il Carpi e con la Fiorentina, vanno male, e allora da tutte le parti c'è il nome di Marcello Lippi. Ma Marcello Lippi arriva a fare l'allenatore per metà stagione e poi? Allora, se devo rispondere io, dico che Marcello Lippi ha già fatto sapere nel colloquio informale che ha avuto, che viene naturalmente smentito, di non essere disponibile a un incarico semestrale. E quindi questo e fa mi sembra capire, comprensibile. Ma mi sembra più che comprensibile. Questo mi fa capire che naturalmente per convincerlo ad accettare l'incarico bisognerà proporgli un contratto almeno di 18 mesi, ma lui ha una voglia incredibile di tornare a misurarsi con le tensioni del campionato e con l'adrenalina del campionato, per cui diciamo gli andrebbe bene anche questa. Seconda cosa, considerati i rapporti personali che ci sono tra Lippi e Conte, è evidente che l'arrivo eventuale di Conte, stiamo parlando sempre di uno scenario, comporterebbe il cambio di ruolo da parte di Marcello Lippi, perché Conte, che pure ha un grande affetto e grande stima nei confronti dell'ex CT campione del mondo, però è uno gelosissimo delle proprie prerogative e della propria autonomia. Certo, e allora aggiungo, Pierluigi, ieri Beninazzo ci raccontava come c'è questa nuova cordata cinese, non è nuova per nulla, sta altra cordata cinese. Il cui non fronte... è cordata, non sì, è cordata. Alibaba è un... No, è lui. Non ascolta, è lui. Non è cordata. No, ma quello che sì. un numero di investitori cinesi che hanno già, tra virgolette, sottoscritto degli impegni con Mr. B. Touchbot, il quale ha invitato il gruppo, diciamo, storico dirigente di Fininvest dalle sue parti, proprio per mostrare tutta questa carta, cioè in questo caso carta canta. Sì, no, ma io ho anche pensato, Pierluigi, non è che l'avvicinamento all'Hippy fosse anche dovuto ai suoi eccellenti trascorsi in Cina? Non è che possa fare da questo punto di vista il dirigente una convergenza di interessi, diciamo, e di simpatie abbastanza chiara. Detto questo, l'Hippy è l'Hippy tutto il mondo, insomma, non è soltanto in Cina, è chiaramente un grandissimo allenatore che ha vinto tanto, che e quindi sarebbe estremamente intrigante il suo ritorno, indipendentemente dal suo passato cinese. Penso che il Milan si stia muovendo, ma è chiaro che queste sono trattative molto complicate, anche perché questa è una trattativa essenzialmente per il 48%, quindi è una trattativa che da qui si fa anche fatica a capire, a incastrare, no? Nel senso che poi quello che mi risulta è che tutte le volte che Berlusconi ha avuto la possibilità di cedere il club, di cedere la maggioranza del club, alla fine per motivi economici, ma credo soprattutto sentimentali, non se la sia mai sentita. Quindi qui si sta cercando di trovare una quadra su una soluzione che porti a una sorta di coabitazione. L'unica sì. traccia della famiglia Lippi che trovo io nelle ultime ore, mi sembra evidente, è quella che porta all'operazione della cessione di Luis Adriano, che ha procurato al bilancio del Milano una plusvalenza di circa 7-8 milioni. E ha fatto trading lì in Milan, cioè l'hanno preso per 8, l'hanno venduta a 14. Il giocatore ha fatto 3 gol. Lo ribadisco a prova di appena smentita. Il Milan non ha fatto un brutto mercato. Il Milan ha fatto un mercato finalmente razionale di prospettiva, puntando su dei giocatori interessanti. Luigi, l'unica cosa è stato un mercato incompleto, perché avrebbero dovuto completarlo con il centrocampista di grande spessore che non è arrivato, e quindi doveva essere Soriano a un certo punto, poi non è stato lui, non è stato, ma meno arrivato. Male, perché non è che Soriano modificava clamorosamente la cifra tecnica del settore. No, ma anche perché, e qui torno al discorso di Montolivo, poi c'è un elemento secondo me veramente di ansia alla prestazione che il Milan di questi tempi ha. Il discorso valeva anche per l'Inter, adesso l'Inter questa è stata una bella stagione e si è un po' affrancata, ma insomma non è facile quando hai questa maglia così gloriosa addosso dopo anni complicati come questi prendere per mano la squadra. Io che per Montolivo sia un buon giocatore con degli spazi, le critiche anche esagerate che certe volte gli vengono rivolte sono perché magari il tifoso del Milan, come capitano del Milan, come leader tecnico in mezzo al campo, vorrebbe, con tutto rispetto, qualcosa in più di Montolivo, che rimane, Montolivo rimane un buon giocatore. È un buon giocatore, ma non è un leader né tecnico né emotivo. Però al Milan sono abituati a Papassa, sono abituati a Shevchenko, sono abituati a una dimensione completamente diversa. Quindi, man mano che passano le stagioni, che passano le settimane e i mesi, questo peso te lo porti dietro in maniera sempre più... più evidente, più gravosa. Franco Orni, un'ultima cosa. L'altro giorno Mondonico ci diceva: in questa situazione di casino totale, soprattutto quando giochi in casa in mezzo a mille pressioni, c'è una soluzione sola: il parafulmine Balotelli, butti dentro lui e se ne prende per tutti. Se bene. Adesso convocato è questa sera, poi va via Luis Adriano, potrebbe tornare al suo momento. Sì, e poi c'è anche il recupero, mi sembra molto più promettente, di Menes, che è quello che diciamo. È un altro che può sparigliare le carte da questo punto di vista. È evidente che la cessione di Luis Adriano è realizzata anche tenendo conto di questi due recuperi, però prima di dire che poi recuperato eccetera, è vero che è stato un 2015 orribile per Mario, però insomma io a questo punto andrei molto ad agio. Non che il 2014 sia stato un granché pure per Mario. Esatto. Grazie Franco, grazie. Ciao, Ciccio, alla prossima. Saluti a tutti. Ciao Ciccio Ordine. Alessandro Bolzano, buongiorno, dica. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Tifoso interista, una domanda semplice. All'Inter chi ha deciso di comprare Kondogbia? All'Inter, cioè, chi ha deciso di comprare Kondogbia, quelli che hanno deciso di comprare anche gli altri. Esatto, sì, esattamente. Però, calcolando acquisto e ingaggio, ho letto che andrebbero via un'ottantina di milioni. Cioè, con quella cifra lì ci aggiungevamo qualcosina, ci compravamo Messi a sto punto. Questo a parte che Messi non è sbagliato, a parte non è comprabile, ma poi com'è? Ma sì. Questo fa parte della vita, cioè, certe volte si indovina, certe volte si sbaglia. Tornando al discorso prima di Sabatini è quello che ha preso Benatia, è quello che ha preso Marquinhos, è anche quello che ha preso Turbo, cioè qui sicuramente ad oggi, facendo un bilancio parziale dopo sette mesi, il rendimento di Gondogbia in relazione soprattutto al costo non è all'altezza. Sì, poi c'è stata una congiuntura di mercato, tu ti ricordi benissimo, per cui c'è stata questa asta al rialzo tra il Milan e l'Inter, e che ha pompato poi famoso, di conseguenza, no? Anche il prezzo di Bertolacci che il Milan è corso a prendere immediatamente per placare gli animi. I prezzi sono aumentati tutti, ci spiegava Passarello l'altro giorno che probabilmente è anche in qualche modo frutto del nuovo contratto delle televisioni, cioè oggi comunque le società italiane hanno delle liquidità che un anno fa o due anni fa non avevano. Poi alcune di queste valutazioni ovviamente sono una pura bolla, diciamo, di inflazione, no? Nel senso che se ci sono più soldi nel mercato, io ti compro la stessa cosa che prima ti compravo a 5, te la compro a 7, e tu allo stesso modo a questo punto hai più soldi. Quindi in parte è anche un discorso strettamente monetario, sì. Però sicuramente c'è più liquidità in giro. C'è più liquidità, ma poi è chiaro che, insomma, Condombia lo vedi giocare adesso, dici questo pagato 35 è una follia. Però, insomma, hai ragione, sono stati prezzi molto gonfiati nel corso di questo mercato, e non solo in Italia. E comunque il paradosso dell'Inter è un paradosso virtuoso, del quale Mancini merita. Il bilancio di Mancini è strapositivo, il bilancio dell'Inter fin qui è favoloso, però il vero paradosso è che tu non hai avuto, a parte forse Handanovic e la coppia centrale di difesa, non hai avuto una squadra clamorosamente rifiorita, no? Hai avuto un buon inizio di Jovetic, che adesso è in discussione, c'è il tweet della porta, il giallo, si fa. Hai avuto qualche straccio da parte di Ljajic. Hai avuto Icardi a mezzo servizio, ha cominciato male, poi si è ripreso. Comunque Icardi c'era anche l'anno scorso. No, l'anno scorso c'era di più, l'anno scorso Icardi ha fatto sicuramente molto di più. Medel, con tutti ovviamente, è Medel, ma ha fatto una grande stagione sicuramente, ma sono pochi, diciamo, i giocatori. Perisic che non l'abbiamo ancora visto per quello strazzi, che può valere. Di Perisic, strazzi di Brozovic, però voglio dirti, alla fine conta il risultato finale, quindi questo paradossalmente è un'ulteriore lusinga che deve essere fatta all'Inter di Mancini, perché nel mescolare continuamente ingredienti diversi, senza che nessuno di questi, a parte, ripeto, forse Handanovic e la coppia centrale di difesa, senza che nessuno di questi, a parte questi tre che abbiamo detto, avesse proprio la forza e le stigmate fuori classe, ha fatto tirato fuori una stagione fino a questo momento veramente eccezionale. Quindi, quindi Condogbia, per carità, è sicuramente tra i più deludenti, ma non è che Condogbia abbia perso, sia completamente fuori dai giochi. No, perché ma è chiaro. Tra un mese arriverà il momento di Condogbia. Molto giovane, qualche tempo lo puoi pur concedere. Pierluigi, grazie, da domani. Ciao Pier. Ciao, un abbraccio. GR, poi c'è Sergio da Brescia, spero che rimanga in linea, insomma. 800 24 00 24, numero verde. Grazie, buon appetito. Tutti convocati. Digital Radio. Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Che dire? Arrieccici. Convocati. Questa è la carica dei 200 aeroporto di Caselle, che è andata a riabbracciare Ciro Immobile, che è tornato a Torino un anno e mezzo dopo. Non fortunata la sua esperienza sul Giro d'Europa, il suo Interrail europeo, Borussia Dortmund e poi Siviglia. Poche partite giocate, pochi minuti giocati, pochi gol segnati. Il prezzo, prestito oneroso, più 11 milioni per il riscatto. Grande entusiasmo, avete dunque sentito, per Ciro Immobile, che a creare al momento una sorta di overbooking, forse nell'attacco del Torino, perché c'è Quagliarella, di cui si parla di un interessamento del Sassuolo, della Fiorentina, ma tra poco chiariremo meglio le cose di mercato. C'è Maxi Lopez, che è già sufficientemente ingrugnito perché gioca poco. C'è Belotti, che è stato il grande acquisto estivo, che fino adesso ha reso praticamente zero. E adesso arriva Ciro Immobile. Alessandro Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo solo fare una riflessione anche sulle dichiarazioni di Franco Ordine prima, relative al Milan e al Napoli, quando anche lei, Genta, diceva che Sarri è stato vicino al Milan e Mihajlović vicino al Napoli. Sì. Però non dovrebbe tutto arrivare, vero, eh? Sì, ma non dovrebbe arrivare un'informazione che, se qualora fosse stato così, il Milan sarebbe primo e il Napoli settimo, perché quello che è ottavo. Non è così, voglio dire. Il Milan ha una squadra che merita quel posto lì oggi, indipendentemente dall'allenatore che ha, perché sarà una banalità, ma in campo ci vanno i giocatori. Se i giocatori danno quel rendimento lì, non è colpa di Mihajlović. E il Milan non ha Higuaín, non ha Hamsik, non ha... No, ma certamente non è paragonabile dal punto di vista dell'organico. Non è paragonabile. Però voi lasciate intendere che se ci fosse Sarri al Milan, il Milan sarebbe primo. Però lei converrà che Sarri è l'allenatore dell'anno. Ma è l'allenatore dell'anno, ma è una banalità. È primo ed è l'allenatore dell'anno, evidente. Se fosse primo Mihajlović, sì, sarebbe Mihajlović. Ma il Napoli l'anno scorso non aveva esattamente lo stesso rendimento con Benitez e più o meno con gli stessi interpreti. Cioè, che abbia migliorato il Napoli, che il Napoli giochi il miglior calcio insieme alla Fiorentina, si possa vedere su un campo italiano, sia più completo anche rispetto alla Fiorentina, che abbia rivitalizzato Higuaín, insomma, posso andare avanti, Insigne, Jorginho, che tutta gente che già l'anno scorso era al Napoli, che stia facendo uno splendido lavoro Sarri a Napoli, che stia facendo un lavoro mediocre invece Mihajlović a Milano, ma perché al di là di questo il Milan è una squadra, al di là degli interpreti, sono d'accordo, non è certo una squadra da scudetto, neanche da Champions League, non lo è mai stata, ma al di là degli interpreti si può vedere anche di meglio. Ad esempio il Sassuolo, non credo che abbia un organico superiore rispetto al Milan, ma gioca in una maniera un po' diversa, converrete. Riccardo, Milano, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Mi riallaccio all'ultima vostra affermazione. È vero, il Milan, visto che l'argomento di cui volevo parlare è ancora Milan, sì, non ha una rosa brutta, a mio modo di vedere, è estremamente incompleta. Prima Pardo parlava di un mercato bilanciato e Ordine l'ha definito anche incompleto. Sono vere, sì, ambedue le affermazioni. È un mercato bilanciato perché hai preso un giocatore di estrema prospettiva come Romagnoli, hai preso Bertolacci, hai preso Bacca. Però non c'è nessuno da mettergli di fianco. Cioè, i Romagnoli non hai un altro difensore di spessore, certo, che gli può dare, certo, una mano, perché, certo, i tre che si sono avvicendati, Alex, certo, poverino, ne fa uno e poi ne salta tre, perché il fisico è quello che è. Xes e Zapata sono decisamente incostanti. Stesso discorso vale per il centrocampo. Bertolacci è un ottimo incursore. No, ma sono d'accordissimo, Riccardo. Non è uno che sa fare gioco. No, ma non ci sono neanche giocatori di personalità, però. Ce ne sarebbe uno, oddio, di discreta personalità, che potrebbe essere Montolivo. Vero che le critiche possono essere eccessive, però neanche lui ha fatto niente al di fuori dell'ordinario per evitare queste critiche. Quindi, appunto, anche lì, se devo essere onesto, che era la domanda poi che volevo porvi, una considerazione da fare, io ho trovato un tantino frettolosa la cessione di Luis Adriano. Apro una parentesi, non, sì, mi ricordo quanto guadagnava il Milan. Adesso, guardi, su questo adesso le spiego ne piglia tutto. 8, sì, quindi se ne prendeva 4 posso anche dire, no, che no, si ma è fatto due conti. Soprattutto, Riccardo, adesso le spiego tutto su Luis Adriano e su questa nuova via della Cina, che mi sembra abbastanza clamorosa. Mario Giunta da Sky, buongiorno. Buongiorno, buon ciao, pomeriggio, grazie, a tutti. Ciao Mario. Ciao, ciao. Allora, ciao. Allora, spieghiamo Luis Adriano, comprato a 8. Gioca più no che sì, segna 3 gol fin qui, rivenduto a? A 14. Non mi sembra un brutto affare, non mi sembra una brutta plusvalenza in 4 mesi. Assolutamente, anche per poi i numeri di Luis Adriano li hai spizzolati te in 6 mesi. Ha avuto forse poche possibilità, ma comunque insomma non è che abbia brillato. Il Milan, di fronte obiettivamente a un'offerta del genere, non poteva non poteva rifiutare. 14 milioni per un giocatore che in sei mesi non ha convinto vanno accettati subito. Lui verrà ricoperto di soldi, come è noto, perché in Cina ne hanno e parecchi. E quindi insomma è una trattativa che adesso si chiuderà e verrà ufficializzata nelle prossime ore. Sì, poi qualcuno dice: ma allora in Cina non è al naso, no? Se vengono qui ti coprono d'oro per un giocatore che il Milan avrebbe venduto, non lo so, probabilmente anche a 10, visto che appunto non aveva convinto nessuno. Non so, per la qualità della vita, lasciare Milano e andare a finire nel nord della Cina, ma credo che insomma con i soldi che gli danno un pochettino te la sistemi là, ecco. Sì, te la fai passare la tristezza. Te la fai passare, no, ma sì. Poi leggo anche di questo Jiang Zhu scatenatissimo, che vorrebbe adesso anche Guarin e Gervinho. Ha provato, se non sbaglio, a sondare per Eder, però Eder ha detto: no, aspetta un attimo, io ancora non sono pronto per la Cina, preferisco stare qui, giocare, magari trovarmi una squadra, un top club, e magari giocarmi l'Europa da titolare. Che è un ragionamento che ovviamente ci sta assolutamente, queste squadre cinesi, quindi il nuovo calcio, definiamolo un po' come vogliamo, è chiaro che su giocatori come Guarin, come Gervinho, come Der, loro ci provano. Detto ciò, fanno bene anche a provarci, perché insomma Gervinho la scorsa estate stava accettando l'offerta dall'Arabia, quindi insomma non è che non sia propenso eventualmente ad accettare nuovi orizzonti di vita professionale, ed è giusto così, perché vogliono crescere anche lì. Sta che a noi sembra molto strano, perché già il suono molto difficile di queste squadre ci mette in difficoltà, però alla fine... ma c'è chi... per loro è normale, dai. C'è chi ci è andato dei nostri, male non ha fatto, a partire da quello che magari potrebbe diventare il prossimo allenatore del Milan, e che nessuno mi toglie dalla testa sia, insomma, questo contatto tra Lippi e il Milan, qualcosa con la via della Cina possa anche centrare. Magari è fantascienza, però insomma è un ragionamento che potrebbe filare. Mario, invece, cosa chiede Spalletti? Innanzitutto domani atterrerà a Roma, Spalletti inizierà questa sua avventura. Ha chiesto durante il colloquio con Sabatini, e credo anche durante la stretta di mano e il colloquio con Pallotta, ha chiesto come è giusto per un allenatore che arriva in una piazza particolare, definiamola così, come Roma, in un momento difficile, ha chiesto delle garanzie sul mercato. Credo che delle garanzie dal presidente del direttore sportivo ci saranno. Già i nomi che sentite, insomma, sono nomi tutti che possono consentire alla Roma di fare una seconda parte di stagione all'altezza. Crisci è un giocatore che Spalletti conosce bene, Tonelli anche è un giocatore che a Sabatini piace molto ed è un obiettivo per la difesa. Bisognerà capire là davanti se chiudono tutte e due o uno tra Perotti e Sharawi. Credo sia più facile Perotti in questo momento tra i due, e non escluderei anche la pista che porta Adriano, non lui ma quello del Barcellona, che è un giocatore sempre di moda per la Roma, che entro la fine di questa settimana ci saranno dei nuovi contatti. Potrebbero essere queste le prime richieste di Sabatini, o meglio richieste, i primi regali di Sabatini a Spalletti. Sì, inevitabile l'overbooking degli esterni. Se prima parlavo di overbooking per il Torino con l'arrivo di Immobile e con Quagliarella che potrebbe partire, no? Forse. Sì, è vero, destinazione Firenze, quindi sarebbe un ritorno, perché lui ci giocò ai tempi della Florenzia Viola, se non vado a memoria qui. Sì. E con Immobile... di fatto lì davanti iniziano a essere in tanti per il Torino, e dopo tutto quello che è successo anche con Quagliarella, il Torino si è deciso che forse la cessione di Quagliarella in questo momento storico, anche per la sua carriera, potrebbe essere la cosa migliore. Sì, detto che potrebbero essere in tanti il Torino, figurati alla Roma. È vero che è andato via Iturbe, però se dovessero arrivare anche El Shaarawy e Perotti, tu dici più Perotti di El Shaarawy, però potrebbero essere tutti e due. E prima c'è Luca Terese che mi ha fatto l'impressionante elenco delle punte, degli attaccanti che la Roma ha a disposizione. Sì, sono tantissimi. Adesso è esploso anche Sadik, che comunque, io non so che uso ne farà Spalletti, comunque questo è un ragazzo che è stato buttato dentro e ha dimostrato di avere una grandissima personalità e di saper segnare anche in Serie A. Sono tantissimi, ecco perché vado ad esclusione per Perotti e per El Shaarawy. anche perché numericamente insomma ne è uscito uno. Se il gioco del mercato si fa molto su sui numeri, teoricamente ne dovrebbe entrare un altro, uno soltanto dei due sopracitati, senza dimenticare che si parlava addirittura di un ritorno di Barbo dal prestito. Sì, certo, sia certo. Un'ipotesi ormai accantonata, ecco. Me lo auguro per Spalletti. Senti, Eder Soriano sono il caso dell'inverno, tutti li vogliono. Tutti li vogliono, è vero, però poi e nessuno li prende, nel senso che comunque per prenderli tutti e due devi fare un'offerta che accontenti il presidente Ferrero. E questa offerta, paradossalmente, per Eder i cinesi sono avvicinati ai famosi 15 milioni che chiedono, le squadre italiane tentennano sempre un pochettino, nel senso che comunque a parole sono bravissime ad avvicinarsi a giocatori come loro, però poi manca l'ultimo step finale. Vedi l'Inter per Eder, vedi il Milan per Soriano, da quanto tempo se ne parla e da quanto tempo però poi la trattativa è sempre là e loro indossano sempre la maglia della Samp. Sì. Molto probabilmente credo che potrebbe rimanere la situazione la stessa anche in questo mercato di gennaio, poi le strade per quello di giugno sono infinite. Beh, questo è chiaro. Ma su Soriano si parlava anche di Napoli, no? Napoli che sta sempre cercando Maximovic. Sì. Quest'estate Napoli ha fatto una corte serrata a Soriano, incredibile, poi anche lì non si è fatto nulla. Napoli sta cercando un difensore, Maximovic ha offerto 21 milioni di euro al Toro e il Toro ha detto no per il momento, quindi insomma c'è un muro molto alto che ha alzato il presidente Cairo. Centrocampista pure, la lotta non è, le trattative non saranno così semplici, però sono tutti nomi di grande qualità, è quello che dico sempre, andare a prendere dei giocatori di primo livello nel mercato di gennaio non è mai facile, devi essere un po' fortunato anche che trovi delle società che abbiano una posizione un po' morbida, ma non è un mercato così semplice come quello collettivo, non è il luogo storicamente, non è il luogo in cui costruisci le squadre, no, è poi il luogo... a meno che non spendi 60 milioni vabbè, 30 quello, per uno e 30 per l'altro, quello è chiaro, quella è roba per sceicchi che stanno da un'altra parte. Mario, ti ringrazio. Grazie a voi ragazzi, grazie, un abbraccio, grazie Mario Giunta. Lavoro. Allora, prima di Giovanni da Monza e Stefano da Fermi, invece, vi faccio sentire cosa ha detto Rummenig su Higuain. Ma che è? Higuain al Bayern Monaco, come lo vedreste? Ma sta giocando molto bene, credo il mio amico Aurelio nel Napoli sarà molto contento che faccia tanti gol e gioca bene. Già che ci siamo, Rummenig su un nostro amico invece, Carlo Ancelotti, che l'anno prossimo, ormai è ufficiale, allenerà i Rossi di Baviera. Ma non l'ho visto perché è ancora lì in Canada o in America, ma l'ho sentito ogni tanto. Lui non è così come viene descritto, che mi ha mandato la lista per quanto riguarda il mercato all'estate. Ma noi abbiamo una bella squadra, lo sa anche lui, lo sappiamo anche noi, quindi è un uomo poco complicato in quello. Quindi non ha fatto la lista della spesa Carletto Ancelotti, cosa che invece... risulta che Guardiola aveva già consegnato allo sceicco del Manchester City, si dice, come su scritto, Messi, Piqué, chi altri, Giorgio De Luca, non mi ricordo più, ce n'era Alaba, ecco, questi, i primi tre erano roba da niente, Messi, Piqué, Alaba, vabbè, beati loro. Giovanni da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Ma due cose velocissime. La prima è, si parla tanto del campionato italiano che tornerà in auge, supererà l'Inghilterra, avrà la quarta squadra, eccetera, eccetera. Ma secondo voi se la merita il campionato italiano questa quarta squadra in Champions League, visto che non passiamo neanche i preliminari? E altra considerazione, non so se Pardo mi ascolta, ma a me fa impazzire quando a FIFA dice cartellino giallo, basta, tutto qua, grazie, arrivederci. Questa gliela giriamo, perché cartellino giallo domani glielo faccio notare, anzi magari glielo mostro pure se non si sente bene al telefono. E quanto alla quarta squadra ce l'auguriamo, insomma, mi sembra che il campionato italiano sia in crescita, che le prime squadre del campionato italiano potrebbero stare a pieno titolo in Champions League, visto quelle che certe squadre che abbiamo visto in giro quest'anno, e quindi ce l'auguriamo. Non credo che avverrà sorpasso, questo è il punto e il problema. C'è anche Stefano, stia lì perché le faccio sentire, Zamparini, che ieri sera è intervenuto da Cruciani alla Zanzara a proposito della vicenda Ballardini, Iachini e poi Schelotto. Mi sono sentito in televisione. Cosa? Domenica sera, dopo una vittoria che aveva fatto contento tutto sì, il nostro sì. Quartiere, esternare giustamente una certa situazione, naturalmente... io sono rimasto vittima anche di questa, ma fa niente, questo si è cambiato da solo perché... cioè Ballardini si è fatto fuori da solo, dici? Sì, si è suicidato, sì, effettivamente è vero, però tu un po' l'avevi già delegittimato perché hai richiamato nel calcio, sai, sono i risultati che delegittimano. No. Stefano da Fermo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori. Dica. Io volevo tornare su ormai un argomento ridetto, riletto e riscritto, il Milan. Io credo che un tifoso del Milan che ancora vada contro Galliani o comunque giudica Galliani è la persona inesperta, incapace, il problema del Milan mi sembra che di calcio debba fare altre considerazioni. Per quanto riguarda che poi ogni persona può sbagliare, è successo che ha sbagliato, ma se andiamo a ritroso, sì, ma su Galliani il discorso è lungo, ci sono colpevolisti e sono la maggioranza, ci sono innocentisti che stanno dall'altra parte della barricata e poi ci sono entro questa schiera anche i maliziosi che dicono che insomma fa gli affari solo con certe squadre, con certi suoi amici procuratori, eccetera, eccetera. Il problema del Milan dunque? Per quanto riguarda invece il discorso tecnico del Milan, io credo che con tutta la capacità di Mihajlovic, al quale nessuno toglie merito, io credo che lui non sia stato in grado di dare un gioco specifico alla squadra. Perché come lei ha precisato prima, il Sassuolo non credo che ci abbia dei giocatori qualitativamente migliori del Milan. Innanzitutto ha fatto delle scelte a priori, ha già fin dall'inizio con uno schema 4-3-2-1-2, pensando che Bonaventura potesse essere un trequartista, quando invece il trequartista lo possiamo dire è un certo Totti o un certo Cassano e non certo Bonaventura, che ha grande temperamento, agonismo, sì, corsa. Guarda, Stefano, Mihajlovic ha cambiato schema ad ogni cambio di vento perché non ha mai trovato la soluzione corretta, perché alcune soluzioni sono gradite ai piani più alti, perché comunque il Milan non è mai riuscito a giocare due partite decenti in fila e per molte di queste ragioni, ma che mi sorprende che non sia riuscito a trasmettere neanche la cattiveria agonistica a questa squadra, e questa è la cosa che più mi lascia perplesso. Trovo il mio amico Mario Boni. Ciao Mario. Ciao Carletto. Ciao. Volevo insieme a te innanzitutto fare gli auguri a Dan Peterson, che ieri non ha compiuto, li ha compiuti qualche giorno fa, ma ha festeggiato gli 80 anni. Quante volte ci hai giocato contro Dan? Ha giocato tante, tante volte, poi è incredibile sempre, ogni volta qualunque giocatore lui veda a distanza di anni riconosce anche le statistiche, i tiri, il momento in cui l'ha incontrato, ha una memoria di ferro, e quando io ho letto che compiva 80 anni non ci credevo. È un sessantenne in grande forma. È un sessantenne in grande forma. Ieri sera grande festa a Milano, gli è stata consegnata la festa in Gazzetta ieri mattina, poi gli è stata consegnata una maglia numero 80 dell'Armani. È la storia della nostra pallacanestro, non solo quella sul campo ma anche quella raccontata, Mario. Ma io direi proprio la capacità di rendere piacevole anche con un sorriso la pallacanestro, la capacità di drammatizzare i suoi termini, no? Che tutti noi ricordiamo, è sempre un piacere ascoltarlo, e mancano un po' le sue telecronache, perché hanno quella capacità di veramente di portarti al sorriso guardando, godendoti, sì, sì, una partita di pallacanestro. Certamente. Invece sul campo Milano ieri non è più Eurolega ormai, come sappiamo. Eurocup ha asfaltato l'Aris Salonicco, dovevi giocare tu nell'Aris ieri sera. Grande dolore, grande dolore. Dovevi tornare in campo. Esatto, amici, 95 a 54 mi sembra tanta roba. È tanta roba, una asfaltata di quelle incredibili. Tanti amici greci mi hanno dato appuntamento a Milano. Io tra l'altro sono in partenza per Salonicco, dove sarò venerdì là, e non potevo vedere la partita. È andata bene così, perché sarebbe stato un po' frustrante per chi è giallo-nero nel cuore una sdraiata del genere. Però diciamolo, ma Milano è molto forte, è la squadra che è costruita per l'Eurolega, forse non così competitiva per l'Eurolega, ma sicuramente in grado di vincere l'Eurocup. L'ultima cosa, Mario, in questi giorni leggiamo anche un'altra notizia, cioè quella di Siena, cui vorrebbero togliere i sei scudetti conquistati per le irregolarità che conosciamo, che non sono certo una novità. Sono sei scudetti in bilico, la possibilità di sei strisce nere sull'albo d'oro della pallacanestro italiana. Ma a me non piace questa ipotesi, voglio pensare che la bravura, al di là che c'è un reato finanziario, quello sta alle persone a decidere le pene o le colpe di chi ha fatto questo, però la bravura di sapere impostare, di creare una squadra, non c'è stato illecito sportivo, perché le vittorie se le sono conquistate sui campi, quindi io credo che i titoli debbano rimanere a Siena, sì. Questo è il mio parere. Sì, sono d'accordo con te, Mario. Sono d'accordo, esatto, con te. Poi anche perché, Carlo, perdono, la bravura anche di prendere giocatori che erano a disposizione di tutti, che nessuno aveva preso: Kaukena, Storuk, Terrell McIntyre, Sato, che giocava addirittura, giocava a Jesi l'anno prima, David Moss, tutti i giocatori che magari da altre parti hanno fatto fatica. Ricordiamo David Moss quando ha giocato a Bologna e a Siena, grandi stagioni, grandi momenti, grandi campionati, la scoperta di Bo McCaleb, Lavrinovic, insomma bisogna riconoscere la bravura. Io non metto la lingua in quello che non mi riguarda, cioè i reati proprio legali, illegali, illegali, però ecco, i titoli mi sembra meritati da Siena. Grazie Mario, alla prossima. Grazie Marione. A voi, ciao, ciao Marione. Ciao, ciao. Ringraziamo Mario Boni, ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Binde in redazione, e vi do appuntamento a domani pomeriggio. Stesso luogo, stessa ora, Radio 24, dopo l'Europa alle 14. Perciò sai che vi dico, passate una bella serata, lupi lupi sono finiti, forse i tempi cupi. Ciao!